storie denoaltri. Tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari e Antonio Ceccato. Buonasera a voi tutti, cari ascoltatori, da parte di Gesi e di Antonio. Eccoci qua, di nuovo Antonio, col nostro graditissimo ospite, che lo presentiamo subito, è il signor Lucio Favaron. E noi lo salutiamo veramente di cuore, perché la volta scorsa veramente è stato grande. Buonasera Lucio. Buonasera Lucio. Buonasera a tutti voi. E bentornato. Anche e soprattutto anche alle ascoltatrici, perché tu Gesuina hai nominato solo gli ascoltatori. Beh, ma è compreso ascoltatori e ascoltatrici. Vabbè, ma a me piace sempre distinguere l'uomo dalla donna, la donna dall'uomo. Va bene, allora tu saluta le ascoltatrici. Sì, e io anzi, gli ascoltatori. Anzi, abbraccio tutti, ascoltatori e ascoltatrici. Benissimo, e bentornato, sai Lucio. Grazie alla vostra disponibilità che mi ha concesso appunto di venire a Treviso dalla mia Padova. Veramente, sì, siamo proprio contenti di averti con noi, vero Antonio? Molto, ecco. Molto. Insomma, diciamo che la contentezza è reciproca. Perfetto. E io appunto vi ringrazio appunto per questa accoglienza così sempre buona, calorosa, un'accoglienza che io definisco italiana da altri tempi. Penso anch'io. In omaggio alla tradizione. Dicono che un piatto di buona cera è sempre il più gradito. Piatto di buona cera. Vabbè, se dopo è accompagnato a qualche manicaretto, meglio ancora. Ma qui purtroppo stasera non abbiamo niente. Va bene. Dai, facciamo anche un po' di digiuno, il che non basta. Allora Antonio. Allora andiamo con i nostri parametri. Naturalmente buonasera e benvenuto alle amiche e agli amici su Blu Radio Veneto. Vi ricordiamo il nostro indirizzo internet www.bluradioveneto.it. Per consigli, proposte e suggerimenti il nostro numero di telefono è il 346 23 20 033. Naturalmente abbiamo la possibilità di ascolto in streaming oppure di effettuare il download, cioè scaricare su PC i nostri incontri, e diamo naturalmente un cordiale saluto al nostro regista Eddie Daici. Al nostro angelo custode io lo chiamo. Bene, allora prima di introdurre il nostro ospite ci ascoltiamo una canzone. Siccome stasera si parlerà di Padova, ci ascoltiamo una canzone in dialetto padovano, che è intitolata Ma quando torno a Padova, è cantata da Umberto Marcato. Vero Lucio? Che sì, è scritta da una mia carissima amica, purtroppo che non c'è più, Licia Oliosi. Ah, le parole sono sue? Sì, parole e musica di Licia Oliosi. Anche la musica? Sì, sì, era musicista Licia Oliosi. Ho capito. Vabbè, allora sì, ascoltiamo. Sì, abbiamo fatto tantissime serate in compagnia sua, sia di poesie, sia di canzoni. Sono passati vari anni. Sì. Va bene, noi ci ascoltiamo Ma quando torno a Padova. Ma quando torno a Padova, Roma, Londra, Tokyo, Singapore, tutti i posti che mi ha incantato. Ma una spina amico sempre in cuore, quando so che son lontan da qua. Ogni sera vardo e fisso il cielo, e a luna me sorride ma, mi non me par neanca tanto bello, perché non somiglia a questo qua. Ma quando torno a Padova, me sento a casa mia, no coma inconia, e tutto me fa bene. Cammino sotto i porteghi, de qua de ami incanto, e cupo e del santo, facciaro a esita. Ritrovo tutti i popoli davanti a sta basilica, chi che ha visto Padova non può scordarla più. Tutto il mondo gli dice, e il Zeo stesso rente i monti come rente il mare, ma tanto una volta come adesso corso via mi voglio ritornare. Cerco dappertutto il tuo viseto, cerco e caresse dei tuo mare. Questo è un amore benedetto, perché è un amore padovano. Ma quando torno a Padova mi sento a casa mia, non come inconia, e tutto mi fa bene. Cammino sotto i porteghi di qua de a m'incanto, e cupo e del santo facciaro a città. Ritrovo tutti i popoli davanti a sta basica, chi che ha visto Padova non può scordarla più. Chi che ha visto Padova non può scordarla più. Eccoci di nuovo in studio. Non sono tanto d'accordo. Un po' perplesso, diciamo. In che cosa non sei d'accordo, Lucio? Su queste affermazioni qua. Chi che ha visto Padova non può scordarla più. Sì, forse un tempo. Forse la Padova di un tempo, chiaramente. Padova di un tempo. Sì, ma Padova di adesso invece è veramente decaduta. Ma come del resto... Non l'Italia. È detto che non si possa risollevare, diciamo. Non si sa. Ma non sono né pessimista né ottimista, sono realista, non monarchico. Di cosa ci parli stasera? Ma diciamo tra l'impatto del cristianesimo a Padova e poi verso Venezia, insomma. Benissimo. Dunque, cristiani e barbari a Padova. Il lento cammino del cristianesimo trova la sua prima attestazione a Padova nei primi anni del 300 d.C., col processo e martirio di Santa Giustina, giovane patrizia patavina, e la predicazione di San Prosdocimo. Fino a quel momento mancano notizie certe, ma si può supporre che in una città rigidamente conservatrice come Padova, le credenze pagane resistessero lungamente al cristianesimo. Solo nel IV secolo d.C. sorgerà la prima basilica, appena fuori le mura cittadine, e sarà dedicata alla Santa Martire. Parallelamente alla diffusione della nuova religione, entrarono in crisi le basi dell'impero romano. Le legiones non riuscirono più a reggere la spinta dei barbari, e Padova fu toccata, però in modo non grave, da un primo saccheggio ad opera degli Unni di Attila nel 451 d.C. Padova resisterà poi per ben 12 anni all'assalto dei Longobardi, attestatisi così saldamente nella pianura padana da isolare praticamente la città dal resto del territorio. Ma alla fine, attaccata da Gidulfo, anche Padova cadde nel 602 sotto il dominio longobardo. Il clero e parte della popolazione trovò rifugio nelle lagune. Dal saccheggio e dalla distruzione della città rimase indenne la sola basilica di Santa Giustina. Sotto la guida del vescovo Tricidio, gli abitanti superstiti di Padova, ritornati nella città distrutta, ne iniziarono la riedificazione. Il territorio municipale viene assegnato alla giudiziaria di Monselice, che divenne così comitatus, cioè contado. L'immagine cittadina di quei tempi doveva apparire, contrariamente al periodo romano, con un tessuto edilizio molto allentato e facente capo alle cappelle di fondazione longobarda, con una propria circoscrizione alla cattedrale di Santa Giustina e al monastero in cui si era insediato l'ordine benedettino, alle chiese di nuova fondazione come Santa Sofia e alle fattorie, secondo il tipico assetto alto medievale conseguente allo allo spopolamento e alla ruralizzazione dei centri urbani. La dominazione longobarda, l'affermarsi dell'impero carolingio, la parentesi della calata degli Ungari, i cambiamenti politici che prima instaurarono il sistema dei vescovi conti e poi innescarono la lotta per le investiture tra papato e impero, coinvolsero superficialmente il debole tessuto civile. In questo periodo sarà l'organizzazione religiosa, grazie all'autorità dei vescovi e ai privilegi feudali che questi godeva, ad assumere la difesa dei pochi cittadini padovani davanti all'oppressione di tanti invasori e a perpetuare lo sviluppo urbano economico della città. Nel 969, all'approssimarsi del 1000, Padova diventò comitatus, retto da Vitale, figlio del doge Pietro III Candiano. Nel 970 il vescovo Giustino affidò ai monaci benedettini il restauro della basilica e del monastero, che erano stati abbandonati dopo l'invasione ungara. La donazione ai benedettini da parte dell'imperatore Ottone I di ampi possedimenti nell'agro patavino ormai abbandonato e incolto consentì di attuare una vasta opera di bonifica delle campagne incentrata sul sistema delle corti. Abbiamo ancora oggi la corte benedettina di Legnaro e la corte benedettina di Correzzola. Alle soglie dell'anno 1000, l'indebolimento del potere feudale dei vescovi, avvenuto a seguito dei conflitti tra papato e impero, consentì il sorgere di un nuovo potere più rappresentativo degli interessi della comunità, che porterà alla nascita del comune. La ripresa, la nascita del comune. L'elezione dei boni homines, cioè delle personalità preminenti, nel 1077, per tutelare gli interessi dei cittadini, costituì il primo segno della ripresa della piccola città e 61 anni più tardi, nel 1138, entrarono in funzione gli organi del comune, cioè l'Assemblea degli Uomini Liberi per le decisioni più importanti, affiancata nell'amministrazione corrente dai rappresentanti delle diverse contrade, i consules o consoli. Assieme ad altri comuni italiani, Padova resistette all'imperatore Federico Barbarossa e provvide a organizzare le sue difese. Sorse la cinta muraria interna, che definisce il tipico perimetro a ferro di cavallo, fortificata con torri e con la cittadella, laddove da sempre sorgeva il castello. Furono installate fortificazioni anche a Montegalda e a Cittadella per proteggere il territorio. Furono scavati canali navigabili di battaglia ed il Piovego per collegarsi con la laguna e si sistemarono le vie terrestri di accesso alla città. Cos'è, scusa, il Piovego? Una derrata alimentare molto richiesta in quei tempi era il sale. Ah. Allora, per approvvigionarsi, i padovani scavarono il canale della Battaglia per mettersi in comunicazione con Vicenza e per appunto approvvigionarsi della trachite dei coliugani, perché le autostrade d'un tempo erano i fiumi. I fiumi, esatto. Cioè, quindi i barconi, i burci, potevano portare, difatti, anche Treviso, città d'acque. No? Sì. Dovevano, cioè, il commercio doveva venire sempre per via d'acqua, anche perché le strade ormai erano state distrutte. Le campagne erano paludose, quindi c'era appunto tutto un degrado. Viene in mente un parallelo con l'idrovia di oggi, che una volta sono riusciti a scavare due canali, eccetera. Qui hanno impiegato una vita per lasciare una framonca. Il canale Piovego, che poi darà origine alle guerre tra Padova e Venezia, sempre per la materia prima del sale, che era il petrolio di quel tempo. Il mantenimento delle derrate, chiaramente. Di e poi anche per tante, cioè il sale appunto serviva anche per tantissime altre cose, insomma. E poi ci fu anche il canale della Brentella, che appunto questo fu uno scopo anche di approvvigionamento idrico, perché i vicentini ogni tanto interrompevano il flusso d'acqua e allora Padova restava sitibonda, cioè doveva... Soffriva la sete proprio, e poi naturalmente l'acqua era la forza motrice, cioè Padova era una città che basò il proprio commercio sulla cardatura della lana. Esatto. Bene, allora ci fermiamo un momento, Lucio, che ci ascoltiamo un'altra canzone. Mm-hmm. e la canzone è cantata da Massimo Ranieri ed è intitolata Sogno d'amore. Perché insomma, la storia è sempre una cosa affascinante. Poi la storia delle nostre terre, delle nostre lande, che in genere non conosciamo, io almeno per quanto mi concerne. Vabbè, io meno ancora. E qui, però è una cosa straordinaria, perché darebbe degli spunti di riflessione notevolissimi, certo. Io credo, se solo volessimo. C'era Foscolo che diceva, appunto, quando fece quelle poche lezioni all'Università di Pavia, disse: «O giovani, vi esorto alle storie, solo se conoscete il passato potrete far fronte al futuro». Assolutamente d'accordo. Sono convinta anch'io di questo, perché senza passato non c'è. Poi è bello ricordare. L'Italia è come un malato di Alzheimer che sta perdendo tutte le proprie cognizioni, capisci? E quindi sta andando contro un futuro molto nebuloso. Speriamo. È molto superficiale, anche perché non si pensa altro che... Vabbè, a te la parola. Allora, per placare le lotte interne tra le famiglie più potenti, il comune deliberò nel 1175 di mettere a capo dei consules cittadini un podestà forestiero. Il primo podestà fu il milanese Alberto d'Aosa, che nell'insediarsi nella carica doveva condurre con sé quattro giudici, uno per assistere il podestà, gli altri a turno per presiedere agli uffici comunali. Inoltre il podestà doveva avere un seguito di valletti, scudieri, cocchieri e cavalli. Il podestà aveva l'obbligo di mantenere il suo seguito con quanto riceveva dal comune e non poteva percepire a nessun titolo altri compensi, né monetari né sotto altra forma. Non poteva neppure pranzare o accettare inviti dai cittadini padovani. Quindi però, non c'era pericolo di concussione, di commistioni varie, di corruzione. Cose di questo tipo. Perfetto. Per sopperire alle necessità della giustizia furono istituite alcune magistrature, i malablati, cioè de male ablatis, per indagare su furti, rapine, incendi dolosi, i cataberi, cioè cata al vero, cioè la pulizia, sì, cioè scopre la verità, cataveri, sì. O cataveri, per scoprire reati anche non denunciati dagli interessati. Infine gli giustizieri per il controllo delle misure e dei pesi. Allora era importante perché si barava molto sul peso, sul titolo, anche perché c'erano monete diverse da comune a comune. Uno era facile con oro, barare. Con oro, diciamo, fasullo, con oro con molto ad alto contenuto di rame. Quindi c'erano questi giustizieri, controllo delle misure dei pesi. Un passo decisivo avvenne nei primi anni del 1200, quando quei magnati, cioè i nobili, ebbero spazio nella gestione del comune anche i popolari, spalleggiati dalle loro associazioni artigiane, le cosiddette fratelle o fraglie, formatesi, cioè una specie di sindacati, sì, formatesi a tutela degli interessi comuni. Tra le fraglie più antiche c'erano quelle riservate ai nobili, specie le categorie dei nodari e dei iudices. Dei notai e dei giudici. Tra quelle popolari erano rilevanti le fraglie dei merciai di stoffe e dei conciapelli. Geograficamente. Scusa, conciapelli? Conciapelli erano quelli che lavoravano le pelli, un po' come quelli delle vallate vicentine attuali, insomma. Sì. Geograficamente il comune si divideva in tre fasce. La campagna coltivata attorno alla città per una profondità di 2 miglia, corrispondenti a circa 2000 passi, un passo, cioè al passo il piede circa poco 33 centimetri, quindi le misure allora non erano ancora misure, diciamo, sì, analoghe a quelle britanniche, sì, attuali, diciamo, se sì, vogliamo, diciamo, miglia, no? Sì, miglia, leghe, leghe, così, esatto. Dunque queste 2 miglia corrispondevano a circa 2000 passi, è detta Companea o Cultura Civitatis. Poi i borghi esterni al fiume Brenta e cresciuti intorno agli sediamenti conventuali degli ordini mendicanti. Dunque il comune si divideva in queste tre fasce, la campagna, i borghi, cioè la periferia esterna, e la città entro le mura. Come adesso, in sostanza, che ci sono le frazioni. Sì, adesso non c'è più... Non c'è più soluzione di continuità fra città e campagna, adesso è tutto uno sparpagliamento di abitazioni, cioè manca di, e per questo qui avremo sempre inondazioni, avremo sempre non c'è più lo sfogo nella campagna, esatto, per poter dare, gli argini vengono abbattuti, i fossi vengono chiusi, comunque. La città di Padova era divisa in 4 quartiere, quartiere del Duomo, quartiere delle Torricelle, quartiere di Porte Altinate e quartiere di Ponte Molino. Allora, quartiere 4, mentre Venezia era sestiere, sì, cioè sestiere, 6. Sì, sì. Le case erano sia in pietra che in legno, facili quindi a frequenti incendi. Un esempio del tessuto urbano della città fra il XII e il XIII secolo si ha nella via di Santa Lucia. Purtroppo non restano che pochi edifici di edilizia duecentesca. La ripresa sociale e politica di Padova è tuttavia minacciata dalla crescente instabilità dei comuni veneti e dalle tensioni cittadine, dove la perdita di potere da parte dei nobili favorisce il formarsi di una fazione favorevole ai da Romano, famiglia di origine tedesca e tradizionalmente legata alle classi nobili, fautrice della restaurazione del potere imperiale. Difatti parliamo adesso di Ezzelino da Romano, feudatario dell'imperatore. Dopo aver conquistato Vicenza, Verona, Trento, Ezzelino III da Romano si attesta in Monselice. La crisi di potere è grave. Il podestà veneziano Marino Badoer abbandona la città e il comune si arrende ad Ezzelino. Padova verserà un tributo all'imperatore Federico II di Svevia, conservando nella forma l'indipendenza, mentre di fatto sarà Ezzelino a comandare. Il dominio di Ezzelino, durato un ventennio, sarà ricordato come uno dei più ingiusti e sanguinosi, mentre in realtà non fu diverso da molte signorie di allora. Inizialmente tollerante, si trovò stretto dal confronto fra l'imperatore e il Papa. L'offensiva o crociata che il Papa gli lanciò contro per ragioni più d'ordine politico che religioso portò lutti e rappresaglie. Non si pensi comunque che la vita civile abbia subito un rallentamento o una recrudescenza sotto il dominio zeliniano. I centri culturali e religiosi, nei primi decenni del 200, rimangono vivi e attivi, compresa l'università. E Zelino amò circondarsi di studiosi e sapienti, in modo particolare di astrologi e alchimisti. Figure preminenti furono Pietro d'Abano e Marsilio da Padova. Pietro d'Abano, quindi questi paesi, Abano, Romano del Zelino, sono nati... Beh, diciamo che Abano ha già, Aponus, aveva già un'origine romana. Sì. Infatti lì c'era il santuario di queste santuario dove c'era il dio che faceva apparire queste acque calde. Così appunto Montegrotto o San Piero Montagnone, cioè tutta la zona. E difatti adesso scavi recenti attestano appunto queste origini. Già le terme, d'altronde dobbiamo insomma sempre ringraziare i romani perché sono stati loro i fautori delle terme. Sì, sì, insomma, quindi cioè i romani di una volta. Sì, certamente. Sì. E Federico II, ragazzi, sì, hanno incrociato veramente stupor mundi, sì. Un grande Federico. No, Federico II, stupor mundi, esattamente. Esatto. Sì. Comunque insomma ci furono appunto degli scienziati che dopo furono in odore di stregoneria come Pietro d'Abano e Marsilio da Padova, filosofi e scienziati che già appunto già stavano aprendo appunto l'umanesimo, cioè erano gente già avanti i tempi, cioè quindi che ci proiettati nel futuro, sì, proiettati appunto nel futuro. Dopo Pietro d'Abano e Marsilio da Padova. L'attività edilizia promossa in quegli anni, condizionata ovviamente dal particolare clima di instabilità politica, si sviluppa in modo significativo nelle costruzioni militari e difensive, i cui caratteri si riflettono anche nell'architettura civile, con fiorire di case e torri, con merlature, come ci testimonia un affresco di Giusto de Menabuoi nella cappella del Beato Luca Belludi al Santo. Facciamo adesso un... andiamo un po' avanti, parliamo del comune e della signoria di Da Carrara. L'avvento di una decisa politica comunale, intesa a troncare ogni privilegio feudale, portò a un decadimento dell'antica nobiltà, che ebbe in Zelino appunto uno dei suoi ultimi rappresentanti. Alla vecchia classe nobiliare si andò sostituendo una nuova classe di imprenditori e commercianti, che ebbe nell'industria laniera e nel commercio del denaro, detto ad usura, la sua fonte di arricchimento. Anche le corporazioni artigiane, cioè le fraglie, riunitesi nel 1295 nell'Unione delle Arti, ebbero un ruolo rilevante nel passaggio dei poteri. Nuovamente al vertice della struttura politica comunale vi fu il podestà, affiancato però da due consigli di formazione cittadina. Uno, il minore, con compito di esaminare le proposte del podestà, l'altro il maggiore, che riceveva i pareri del consiglio minore e deteneva il potere legislativo. Cioè podestà, potestas, cioè quindi l'autorità. Il consiglio podestà. Comunale e giunta, diciamo, se vogliamo, una cosa cioè similare. Il podestà era il capo, no? Sì, il podestà era il capo, però veniva sempre da una città esterna, cioè perché non doveva essere appunto... aderire ad una parte perché le fazioni contrapposte, i galli in un pollaio cercano sempre di beccarsi. Doveva essere neutro. Ecco, doveva essere neutro, mentre in tanti casi poi anche non si verificò questo. Poi il podestà venne reintrodotto in epoca fascista, però non era di una città esterna, era un notabile della stessa città. Quindi molto legato al partito dominante. E questa era la debolezza, diciamo. Appunto i compensi, come attualmente si dà il compenso all'uno, si dà il compenso all'altro, tu ti metto qua, diventi presidente dell'ente. C'erano anche allora i favoritismi. Certamente. Ok, ci fermiamo un momentino per un'altra canzone e questa volta abbiamo una canzone abbastanza recente ed è cantata da Ron ed è intitolata L'uomo delle stelle. E non è un mondo se non mi fa amare quel che c'è. E non è vita se non posso viverla con te. Ti cercherò tra mari aperti nell'eternità. Ti ruberò anche all'eternità. Che bella sei, così precisa dentro ai sogni miei. Che luce fai quando ti guardo e non lo sai. Il vento ti parlerà di quest'uomo che vive per te. Si resterò vita per sempre. Tenderò tutte le stelle, ci riuscirò, perché sono l'uomo delle stelle. E bella sei, unica luce dentro agli occhi miei. Mi guarderai come non mi hai guardato mai. Il tempo ci sfiorerà e saremo per sempre io e te. Di nuovo in studio e adesso il nostro Lucio continuerà il suo bellissimo racconto della storia. Excursus. Excursus. Allora, cuore politico, amministrativo ed economico delle città è l'organismo del Palazzo degli Anziani e del Palazzo del Consiglio, il quale fa capo al Palazzo della Ragione, cioè il Tribunale, che poi sarà chiamato il Salone. Dalla seconda metà del 200 organizzerà e unificherà le piazze del mercato attorno al simbolo del potere comunale. A partire dalla sua edificazione avvenuta nel 1219, il Salone, penso tutti conoscano, subirà varie ristrutturazioni fino ad assumere l'aspetto attuale dopo l'incendio molto doloroso del 1420 che distrusse gli affreschi di Giotto. Una fervente attività edilizia tesa alla definizione della città e del suo uso si sviluppa alla fine del 200. Sorsero innumerevoli cantieri civili e religiosi e Padova celebrò la sua antica origine nel supposto ritrovamento del sarcofago di Antenore, l'eroe troiano a cui si faceva risalire la fondazione di Patavium. Se la città romana venne mitizzata in Antenore, suo leggendario fondatore, la città medievale cristiana trovò in Sant'Antonio il suo rifondatore. A Santo Antonio, cioè Fernando il portoghese, venne, infatti Sant'Antonio era di origine portoghese. Sì, sì. Si chiamava appunto il nome il battesimo suo era Fernando, che poi assunse quando entrò appunto nell'ordine francescano il nome di Antonio. Allora, a Sant'Antonio venne dedicata nel 1310 la grandiosa basilica divenuta il simbolo della città. A Padova in quegli anni si sviluppò anche una fervida vita intellettuale che ebbe nella nascente Universitas Studiorum dell'università uno dei suoi centri propulsori, sorta nel 1222 in seguito ad una migrazione di docenti e studenti dalla sede di Bologna. L'università fu protetta ed uno statuto del 1260 prescrisse che il comune dovesse fornire alloggi a maestri e discepoli. Inoltre erano previsti prestiti utilizzando denari pubblici per difendere gli intellettuali, cioè i docti homines, dai prestiti ad usura. Per ottenere un credito era sufficiente che si offrisse quale garante un cittadino solvibile o, in mancanza di questo, il comune accettava anche i libri in pegno. La carta era molto costosa, anche perché non c'era ancora stata inventata la macchina da stampa. Si dovette attendere la fine del 400 perché le elezioni si tenessero tutte nella sede del Palazzo del Bo. Il Bo era un'antica scuderia, era un'antica stalla, poi riattata e data in uso appunto a studenti e professori. Ormai è il nome universalmente noto dell'Università di Padova. Anche perché lì nei lavori si trovò un bucranio, cioè il cranio di un bue con le corna appunto molto allungate. Difatti il bucranio divenne il simbolo, lo stemma dell'Università Patavina. Il fervore culturale e artistico percorse ininterrottamente il periodo che va dai primi anni del 300 a metà del 500. Pittori, studiosi, filosofi, medici di chiara fama e personaggi che la loro opera hanno segnato le tappe più significative della storia italiana percorsero e abitarono quella che Giovanni da Nono chiamò all'inizio del 300 una selva di torri. Cioè, le case erano tutte a torre, come abbiamo ancora degli esempi a San Gimignano in Toscana. Sì, sì. Padova si presentava infatti come una città dalle strette e tortuose strade, condizionate dai corsi d'acqua, dalle mura e dalle vaste proprietà ecclesiastiche. Tipica caratteristica dell'edilizia padovana sono i portici, sui quali le case si appoggiano, non con una facciata imponente, ma con il lato corto del loro perimetro. Le quattro porte della città medievale, chiamate Porta Molino, Porta San Giovanni, Porta delle Torricelle e Porta Altinate, si aprirono nei secoli a personaggi illustri delle scienze e delle arti. Basta pensare appunto a Pietro d'Abano, che abbiamo citato prima, sì, a Giotto per la pittura, a Dante e a Galileo per le scienze. Un parterre d'erba straordinario. La penetrazione della cultura toscana, definita umanesimo, avviata da Giotto all'inizio del 300 con la decorazione della cappella commissionata dal banchiere Enrico Scrovegni, trovò in Padova un fertile e raffinato centro di irradiazione nella corte della signoria carrarese. Il secolo XV, cioè il 1400, vide operare Donatello dal 1444 al 1453 con lo stupendo crocifisso in bronzo, gli alti rilievi dell'altar maggiore della Basilica Antoniana e con il meraviglioso monumento equestro al Gattamelata, cioè il condottiero della Repubblica Veneta Erasmo da Narni. Gli affreschi della Cappella Ovetari nella Chiesa degli Eremitani sono una testimonianza dell'arte eccelsa di Andrea Mantegna, profondo analista della prospettiva pittorica. Il gusto del bello, dell'arte, dell'arioso intrecciarsi di stili nella costruzione dei palazzi con prevalenza dello stile gotico, veneziano e toscano indicano un periodo di prosperità che attraversò Padova in quei secoli. Da tale fermento culturale doveva svilupparsi fino alle soglie del 1500 quel rinnovamento che condusse ad uno dei più significativi momenti del Rinascimento veneto. La produzione laniera, su cui si basava la prosperità di Padova, toccò allora i massimi livelli, tanto da importare materiale grezzo ed esportare poi il prodotto finito. Anche l'industria della carta, introdotta da Pace e da Fabriano, trovò un suo spazio vitale. Notai, studenti, artisti affollarono le rivendite di carta sotto il salone e la cancelleria della corte carrarese fu una grande consumatrice di carta, abbandonando l'uso delle costosissime pergamene. Una volta usavano le pergamene. Il denaro allora abbondava e lo confermò la dilagante passione per il gioco. Si scommetteva nelle bische, nelle bettole, nella stessa corte carrarese, tant'è che il pittore Altichieri ritrasse i volti di alcuni cittadini padovani per dipingere i legionari che si giocano a dadi le vesti del Cristo. Nella cappella di San Felice si trova questo, nella Basilica del Santo, nella cappella di San Felice. Alla prosperità artistica ed intellettuale non fece eco però altrettanta tranquillità sul piano politico. le rivalità tra i comuni portarono alla disgregazione politica e al dissesto economico parecchi di essi. La Padova del 300 fu tormentata da continue lotte intestine tra famiglie ricche, da congiure di palazzi, con assassini e delitti nel seno della stessa famiglia carrarese impegnata nella scalata al potere. Un'ascesa coronata nel 1318 quando l'Assemblea dei 600 proclamò Giacomo da Carrara Defensor Populi, cioè difensore del popolo, e capitano generale. Alla sua morte Marsilio da Carrara assume il vicariato nel nome di Can Grande della Scala, dopo che la città, a seguito di faide interne, si era data agli Scaligeri nel 1328. Nel 1337 Marsilio da Carrara strinse alleanza con la Serenissima e con Firenze in funzione antiscaligera e nello stesso anno venne proclamato signore di Padova. La corte carrarese rese splendida Padova e la regge, la cui edificazione fu iniziata da Ubertino da Carrara sull'area fra la piazza del Duomo e la chiesa di San Nicolò, ebbe come mausoleo di famiglia il battistero del Duomo affrescato dal fiorentino Giusto de Menaboi. E questa è una meraviglia che tutti dovrebbero vedere. La vedi anche voi lì, San Nicolò? Sì, cioè, San Nicolò, insomma, di qua di là. Sì, San Nicolò appunto è il vescovo d'Oriente. Che poi fu definito come Babbo Natale. Sì, infatti il 6 di dicembre... Queste trasformazioni così inopinate. Infatti qui nella chiesa di San Nicolò il parroco fa sempre la festa per i bambini. Sì. Certo che è straordinario il fatto di dover prevedere alloggi per i maestri e per gli allievi, quindi i campus moderni. Era già tutto preventivato. Allora... Dunque, un passaggio sopraelevato, detto traghetto delle mura, collegava la reggia alla cinta difensiva. E questo qua poi si troverà anche a Firenze. C'era, quando c'era in caso di sommosse o di rivolte, c'era oppure la via di liti familiari, c'era sempre... Che poi invece poi i veneziani distrussero tutto, perché quando cade un regime anche gli emblemi che sorreggono questo regime vengono spazzati via. Gli episodi di sangue, appunto, i giochi di alleanze che contraddistinsero la signoria carrarese costarono a Francesco da Carrara la morte in esilio, mentre il suo successore, ultimo dei carraresi, Francesco Novello, fu sconfitto da Venezia e condannato a morte per tradimento. Da notare che Francesco Novello era anche nobile veneziano, cioè erano titoli che si rivendevano. Sbaglio, era anche poeta, no, vero? Ma cosa vuoi, non ho mai avuto l'occasione di vedere quello che scrivevano questi qua. A me interessa soltanto quelli già definiti, insomma. Questi qua erano schiavi del potere. Sì, cioè, sì. Comando mi, faccio tutto mi. Sì, questo sì. È il solito come qualcheduno di nostra recente conoscenza. Ma diciamo che i paralleli si sprecano. Diciamo. Vabbè, dai. L'epoca carrarese comunque fu ricca di ferventi culturali ed artistici, senza dimenticare il Petrarca, amico personale di Francesco da Carrara, il Vecchio. Lucio, ci fermiamo un momentino e ascoltiamo adesso una canzone cantata in lingua francese. A me piace molto. Anche francese. Sì. Ah, les Italiens sont toujours les Italiens. Anche questa l'ho appena sentita, effettivamente. Les Italiens. E ascoltiamo da Charles Trenet. Les Français sont toujours les Français. Da Charles Trenet ci ascolteremo Que reste-t-il, che insomma, in sostanza è una canzone nostalgica che ricorda... Il protagonista ricorda il suo amore giovanile e dice: cosa resta oggi dei nostri bei giorni? Amore giovanile o amore senile? Perché... Ma mi pare che dice di base adesso, quindi vuol dire che è di gioventù, no? Sai, si perde il pelo ma non il vizio. Vabbè, dai, sentiamo questa nostalgica canzone cantata da Charles Trenet. Le vent qui frappe à ma porte me parle des amours mortes devant le feu qui s'éteint. Ce soir, c'est une chanson d'automne dans la maison qui frissonne et je pense aux jours lointains. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous, un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants, que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé. Les mots tendres qu'on murmure, les caresses les plus pures, les serments au fond des bois, les fleurs qu'on retrouve dans un livre, dont le parfum vous enivre, se sont envolées. Pourquoi? Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux de moi? Eccoci di nuovo in studio. Allora, prendiamo adesso Padova e Venezia, queste due antagoniste. Come è passata in fretta, però quasi un'ora, Molto velocemente. Vediamo se ce la facciamo a concludere. I difficili rapporti politico-economici tra Padova e Venezia, che all'inizio del secolo XV metteva in atto le mire espansionistiche nell'entroterra, si aggravano alla fine del Trecento quando Padova si allea coi genovesi nella guerra di Chioggia. Dopo un susseguirsi di guerre dagli alterni esiti, nel 1404 Francesco Novello da Carrara riprende la guerra contro Venezia. Gli avvenimenti, però, piegarono ben presto a sfavore dei padovani e la città fu stretta d'assedio. Nonostante i disagi, i padovani resistettero fino al novembre dell'anno successivo, quando un tradimento agevolò la vittoria dei veneziani. Si faceva presto, si passava da uno schieramento politico all'altro. La transumanza, praticamente, cosa che naturalmente oggi non succede più, per fortuna. Francesco Novello, recatosi a Venezia per tentare un accomodamento col doge, fu imprigionato e ucciso, cioè strangolato. Era molto di moda lo strangolamento. E avvelenamento anche. Quell'epoca. Anche l'avvelenamento. C'era a Venezia era sempre stato molto di moda un pugnale speciale detto Misericordia. Questo qui nell'Elsa, che di solito era il fondo, cioè l'inizio dell'Elsa, cioè dell'impugnatura era coperta da una pietra preziosa o semipreziosa, di solito era il topazio. Si apriva questo topazio e all'interno c'era del veleno. Bastava solo inumidire la punta, si prendeva naturalmente un pizzico di questo veleno, naturalmente con un fazzoletto, con qualcosa, perché era sempre lì. Di solito era polvere arsenicali, erano queste qua. Sì. Molto efficace. Si metteva sulla punta e bastava appunto una scalfittura e allora... Che andavi a quel paese. Sì. Deo giuvante, aiuto di Dio, insomma, si partiva. Allora, il XV secolo, cioè il 1400, fu un periodo di assestamento dopo i disastri portati dalla guerra, che doveva aver distrutto gran parte della selva di torri che caratterizzava l'immagine trecentesca della città e la sua operosità. Parallelamente alla ripresa economica si ebbe un notevole incremento edilizio teso a riparare i guasti bellici e a integrare e dare compattezza al tessuto cittadino entro le mura. Dal punto di vista istituzionale, la ristrutturazione imposta con la presenza di magistrature veneziane, quindi podestà ancora, ma il capitanio, i camerlenghi, i provveditori, viene accolta con una certa base di consenso, poiché andava a rimuovere i privilegi assolutistici accentrati dalla signoria carrarese e garantiva la pace, pur se a costo del sacrificio della libertà e identità comunale. Quindi Venezia aveva portato una specie di democrazia. Naturalmente sempre sotto il dominio del dominante, però insomma i cittadini erano liberi di arricchirsi. Una sorta sì, di pax veneziana, diciamo così. Ecco. Sul piano sociale e in carattere con le concezioni di politica assistenziale della Serenissima, è interessante segnalare tre aspetti. La fondazione dell'ospedale di San Francesco, ancora in via San Francesco a Padova, per l'assistenza agli indigenti, la fondazione del Monte di Pietà per il prestito di denaro, anche allora, e la riconferma di un'antica consuetudine però nata col comune, cioè l'avvocatura per i poveri, cioè la difesa gratuita dei poveri. E questa è una bella cosa. Questo è l'avvocato d'ufficio, certo, diciamo. L'avvocato d'ufficio. Sì. Padova ormai, legata alla fortuna e alla sorte della Serenissima Repubblica, vede interrompersi la dominazione di San Marco per un brevissimo periodo, quando nel 1509 si arrende all'imperatore Massimiliano, il senza denari, d'Asburgo, che guida gli eserciti delle grandi e nascenti nazioni europee che vedevano un pericolo nella rapida espansione di Venezia, coalizzati nella Lega di Cambrai. E sempre questi qua vogliono sempre imporci tutele, sempre esatto, vogliono sì, sempre. Ma era una, come posso dire, una sfilata di potenze straordinarie che si erano coalizzate contro la Serenissima. Comunque l'occupazione dura pochi mesi, dopodiché Padova, riconquistata la causa veneziana per merito del doge Loredan, resiste strenuamente fino a che la Lega di Cambrai si scioglierà sconfitta dal confronto con la Serenissima. Sconfitta non sul piano militare, ma sul piano diplomatico. Cessate le ostilità, Venezia si dedicò al rafforzamento del sistema difensivo di Padova, poiché le vecchie mura medievali non potevano più contrastare il progredire delle tecniche d'artiglieria. Sorge così la nuova cinta muraria cinquecentesca, alla cui realizzazione furono impegnati i migliori esperti del tempo, Bernardo Dalviano. Per il tracciato, gli architetti San Micheli e Falconetto per la realizzazione. Verso la metà del secolo l'opera può considerarsi completata e resa più efficiente dalla demolizione di tutto quanto si trovi fino a 2 miglia dalle mura, così da togliere al nemico ogni possibilità di manovrare al coperto. Ancora una volta, lentamente, riappaiono i segni della ripresa economica. Capitoli importanti di questo sviluppo sono l'agricoltura, la tradizionale industria laniera affiancata da quella più recente della seta, che poi si espanderà tutte le varie province, la Treviso, con anche esattamente tutto. So che la lana era molto a Vicenza, ci sono dei lanifici, no? Sì, ma preso appunto da Padova, poi sono trasferiti poi a Vicenza. Comunque Padova era proprio il centro laniero per eccellenza. Sì. Alvise Cornaro, mecenate e studioso di scienze ed arti, fa pubblicare nella prima metà del secolo XVI, 1500, vari trattati e studi dove espone il suo programma di sviluppo agricolo e ordinamento idraulico, esaltando quei principi del vivere in villa che saranno il fondamento di quell'ampio fenomeno che interesserà i due secoli successivi e determinerà il nuovo assetto e uso del territorio veneto. Ormai a Venezia era precluso il commercio, cioè loro lo chiamavano il traffico, con l'Oriente, per data la potenza appunto musulmana. Anche la battaglia di Lepanto fu un episodio, perché bloccò per il momento insomma la strapotenza ottomana, però non riuscì a far emergere Venezia, e da quel momento lì Venezia cominciò a decadere anche dalla guerra di Cipro e dalla guerra di Candia. Dall'incontro appunto del Cornaro con l'architetto veronese Gian Maria Falconetto, col filosofo Pietro Bembo e con Ruzzante, questo commediografo in dialetto. Nella parlata pavana, Ruzzante. Sì, che adesso nomi che io ho interpretato, ma che adesso non rifaccio qui perché quel che direi sarebbe incomprensibile. Nasce il movimento di idee che sarà la base del Rinascimento veneto. Nel 1527, appunto, l'architetto Falconetto progettò per Alvise Cornaro l'Odeo, cioè la sala da musica e la loggia, che si possono ancora vedere in via Cesarotti per andare appunto verso la Basilica del Santo, realizzando il primo esempio architettonico del nuovo classicismo nel cortile del Palazzo di Città, dove la loggia, richiamandosi alle forme degli scenari dei teatri greci e romani, sarà il fondale delle rappresentazioni teatrali di Angelo Beolco, detto Rusante. Rusante perché aveva sempre un dialetto che non si capisce. Sì. Il governo della Serenissima è caratterizzato da una precisa volontà di dimostrare la potenza del proprio dominio attraverso la costruzione di palazzi pubblici, quali il palazzo dei Camerlenghi e la loggia del Capitanio, sull'area dove sorgeva la reggia di Da Carrara, il Monte di Pietà e le porte della nuova cinta muraria. Anche il potere ecclesiastico è di estrazione veneziana e persegue i medesimi intenti di rinnovamento nel nuovo vescovado, nel Duomo, in Santa Giustina e in altre chiese. Ma altri sono i motivi che fanno Padova vitale nell'ultimo periodo di dominio veneziano. Primo fra tutti il fervore di idee che si intrecciano nell'università, dove vive la risonanza grazie alla presenza di una forte rappresentanza di studenti tedeschi della riforma protestante. Non mancarono ovviamente contrasti col papato, ma la consueta indipendenza veneziana fu in questo caso ben utile per conservare all'Ateneo una larga autonomia. La medicina moderna ebbe culla a Padova e già verso la fine del Cinquecento fu ultimato il teatro anatomico. Nel 1592 inizia l'insegnamento Galileo Galilei, che viene riconfermato nell'incarico per numerose volte e pagato profumatamente in zecchini d'oro. Beh, quelli erano soldi ben spesi, voglio dire, sì, ecco, a differenza di altri, certo, magari. Ma d'altronde anche, però, lo stesso Galileo anche teneva a pigione, a pensione, esatto, anche studenti, quindi era abbastanza, insomma, lucrosa la sua attività. Per la prima volta nel mondo si laurea una donna, Elena Lucrezia Cornaro Piscopia. Siamo nel 1630. Nel Settecento l'università inaugurò nuove cattedre, agronomia, veterinaria e due di diritto. Questi anni portano anche idee politiche nuove e sull'impronta di quanto si va discutendo in Francia e Inghilterra si forma a Padova una corrente innovatrice. È il secolo dei lumi, in cui Padova vede realizzarsi attorno agli ideali neoclassici del podestà Memmo, Andrea Memmo, il risanamento della vasta area paludosa chiamata Pra della Valle, antistante la Basilica di Santa Giustina, che era andata via via definendosi entro le quinte edilizie. Nel 1775, sulla vasta spianata, sorgerà l'isola Memmia, ricavata dalla canalizzazione degli acquitrini e adornata da ponti e statue nella logica di abbellimento della città, dove verrà eretto nell'aprile 1797 il primo albero della libertà. È anche l'epoca di Napoleone, il quale, sceso vittoriosamente in Italia, stipula quel trattato di Campoformido del 17 ottobre 1797, col quale Venezia e il Veneto vengono ceduti all'Austria. E qui siamo. Padova, parte integrante e vitale della Serenissima, seguirà le sorti di questa nelle lotte per l'indipendenza e per l'unità nazionale. L'ultima volta in cui Padova ebbe una notorietà nazionale fu quando fu dichiarata capitale al fronte nel 1917, dopo la rotta di Caporetto. E qui siamo alla conclusione, un percorso affascinante, straordinario, sì, un bello crogiolo praticamente, sì, ma non solo dal punto di vista storico, artistico, letterario, una cosa straordinaria. Abbiamo toccato un po' tutto. Bellissimo, peccato che effettivamente siamo in zona Cesarini. Certo. Diciamo, tutte le cose belle devono avere un termine, altrimenti non sarebbero più belle. Naturalmente, ma noi evidentemente... Non sarebbero più belle. Vabbè, sarebbero. Dai, sì, comunque è stato bello. Riserviamo, ecco, di, naturalmente, di... attingere ancora a queste fonti. Speriamo, ci sono tante cose ancora da dire, vero Lucio? Beh, insomma, io sono un veneto patocco, quindi insomma io sono nato a Padova, ma per un giorno poi l'infanzia trascorsa in Cadore, poi Venezia è sempre stato il mio grande amore, anche per parentela, poi naturalmente non parliamo di Treviso, dove ho amicizie vitali, quindi insomma nel un mio intreccio straordinario, insomma, io, diciamo, mi definisco sempre una bossa de vin, quindi quattro quarti, perché per un quarto sono padovano, un quarto trevisano, un quarto cadorin e un quarto veneziano. Questo è tipicamente veneto. Allora noi, sì, naturalmente siamo a ringraziare, è sempre una cosa straordinaria, devo dire che per un popolo così smemorato. Se mi consentite, vorrei dire qualcosa sulla mia terra, questa terra veneta. Siamo alla questione di pochi, un minuto, diciamo, se riusciamo in un minuto a fare tutto. Ho sempre amato questa mia terra, non ho mai desiderato vivere altrove. A volte ho pensato che mi sarei potuto fondere in essa, trasformandomi in erba, foglie, fiori, di sciogliermi nelle sue acque, di essere vento tra i rami o rudere tra le sue vestigia antiche. Terra mia, di te ho visto più cose restando fermo che correndo. Mi è bastato piantare una sola pianta di rose e il mio orto è diventato un giardino. Terra mia, la casa dove nacqui non c'è più, ma tu ci sei e mi trattieni tra i monti e il mare, mentre mi sussurri, difendimi. L'ho tentato e ancora mi dedico a te, ma coloro che qui sono giunti sono molti e ancora vengono inarrestabili, sospinti da un desiderio di possesso che solo la fame sa interpretare. Posso accettare questo, ma non la cupidigia e la sopraffazione, non l'invasione camuffata da solidarietà. Terra mia, molti che da te sono nati non hanno compreso o non vogliono comprendere il pericolo che corri in coesione, tradizioni civili, umanità. Come posso chiamare i complici del tuo depauperamento morale, rinnegati o profittatori dell'accoglienza? La verità verrà a suo tempo. Intanto io mi chiedo, potrai sfamarci tutti? Terra mia, su di te non si posa l'occhio di un Dio benevolo. Questa è una poesia scritta dal nostro Lucio, diciamo che fa meditare, veramente anche fa per meditare, cose. Bravo Lucio, ecco. Vabbè, allora non ci resta che ringraziare il nostro ospite e ringrazio voi per l'accoglienza, per la pazienza con cui mi avete è stato, ascoltato, è sempre un grande piacere, e alla prossima volta, alla prossima, e diamo assieme anche al nostro regista buonanotte a tutti. Avete ascoltato Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre.